Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Sono le 8:34 minuti, io tengo un po' la sorpresa mentre Carlo rifiata, perché sai, ha dovuto in regia, c'è Carmelo Lauricella, ha fatto una volata per arrivare qui in tempo e quindi adesso gli diamo un attimo così per riprendersi, perché quando uno c'ha il fiatone non va bene. E io intanto ricordo i numeri di questa giornata, ovvero l'800 24 00 24 per le vostre telefonate e per partecipare all'indovinello, ovvero indovinare il personaggio della settimana. Carlo, quando ci sei dimmelo tu, ci sei? Ci sono. Buongiorno. Io ho in mente una collega che arrivò con il fiatone una volta, non voglio dire cosa sembrava. Stava malissimo. Come giustamente ricordavi tu, da tradizione l'ultima puntata porto le brioche. Oggi ero stato tradito da tutti i panettieri. Carmelo, esatto, mi ha detto: non è vero, c'è quel panettiere là in fondo. Allora io sono corso e invece quel panettiere là in fondo era chiuso, che tra l'altro sono pure amici, quindi salutiamo. Ho trovato delle brioche in un bar che non sono quelle di pasticceria, ma spero, insomma, che tu non abbia trovato la famosa Luisona. No, esatto. temevo quello, ma insomma, a Milano vicino a Radio 24 è difficile. Sì, tra l'altro alla fine di luglio in un'area dove ci sono più uffici che abitazioni, insomma non è che certo ci sia un grande smercio. Te lo sapremo dire, grazie. Giusto, Carlo, ma per ci averle mancherebbe portate. Altro, grazie a voi, sono felicissimo di essere qui finalmente, dai, negli studi e finalmente insieme, di vederti, dai. Laura. Esattamente, siamo distanziati, è per la vostra, state tranquilli, siamo a 1,5 metri sicuro, forse. Sì, secondo me più di 2. Forse anche qualcosina di più. In assistenza c'è Edoardo Lavezzari, anche lui, insomma, poi dopo un po' di vacanza anche per Edoardo e anche per Danilo Di Trani. Abbiamo ancora qualche giorno da tirare la carretta, diciamo così, ma poi finalmente vedremo anche noi un po' di spiagge, un po' di laghi, magari anche qualche locale storico d'Italia, ne parliamo tra poco. Prima però vorrei sapere, Carlo, se hai qualche consiglio per noi, ecco, insomma, prima di salutarci per la pausa estiva. Sì, ultima puntata di questa stagione, come dicevamo, ultimo consiglio. Ieri ho ringraziato ogni singolo ascoltatore per l'affetto e anche per le critiche. Oggi voglio ringraziare ogni singola scrittrice, regista, illustratore, autore che mi ha tenuto vivo e sveglio, sia quelli che vi ho consigliato, sia quelli che mi sono tenuto per me. Volevo nominarli tutti, ma sarebbe stato troppo lungo. Li trovate ovviamente nella versione audio, nei podcast delle puntate di Si può fare, e nella versione scritta sulla mia pagina Facebook. È tempo di vacanze, come diceva prima Laura, anche se in realtà Laura, ricordiamolo, da domani è in onda la mattina, quindi sì, lei non va in vacanza, o perlomeno non subito. E le vacanze la sono poco necessarie, sono, esatto, sopravvalutate le vacanze. poi ti chiamo fra 2 settimane e mi dici. Certo. E quindi dicevo, tempo di vacanze all'ombra del Covid, ma si spera con del tempo libero e senza troppo smart working. E visto che chi è più giovane avrà da fare i compiti in attesa di tornare a scuola il 14 settembre, ho trovato una bellissima idea, quella della neonata casa editrice Blecchi Edizioni, di pubblicare il quaderno di compiti delle vacanze per adulti. Tutti abbiamo bisogno di studiare, in tanti hanno detto che questa pandemia potrebbe essere occasione di investire su se stessi. Il concetto di fare anche noi adulti un po' di compiti per sapere qualcosa in più mi sembra sano e fertile. Sono 150 esercizi, che poi sono quiz, indovinelli, trova le differenze, cruciverba, ricorda un po' il vecchio sussidiario, ma i temi sono musica, cinema, serie TV, letteratura, scienza, sesso, cibo, sport, e soprattutto è molto attuale perché ci sono immagini di Greta, c'è la Marie Kondo che va aiutata a fare ordine, c'è da indovinare quale automobile è stata usata in quale film e così via. Ad essere onesti, dal titolo mi aspettavo più domande di cultura generale, di approfondimento. Invece è sostanzialmente una settimana di enigmistica moderna, con riferimenti a House of Cards o a Danilo Gallinari o a Stranger Things, al posto delle barzellette sulle suocere e il bersaglio, che io comunque continuo ad amare moltissimo. Forse aver tradotto la versione spagnola invece di comporre una versione italiana ex novo non ha aiutato, però l'idea resta buona. Ricordo che una decina di anni fa Rizzoli era uscita con I compiti delle vacanze per i grandi, che si basava sulle domande della terza media, ma credo che oggi sia introvabile. Credo che quello, anzi so che quello era più nella direzione di imparare. Comunque ci sono tanti modi per imparare durante le vacanze, penso a qualunque libro di Michael Pollan, penso a tutti i libri di Harari di cui ho parlato spesso qui, penso anche a fare esperienze senza per forza passare dalla lingua scritta. Direi che ci sentiamo a settembre per raccontarci cosa sappiamo di nuovo. Buon agosto a tutti. E vedere quante caselline siamo riusciti a riempire. Allora, ci rimprovera Edoardo perché non abbiamo dato l'indizio, l'indizio per indovinare il personaggio della settimana. Come sempre, il personaggio non è necessariamente un uomo, può essere una donna, un avvenimento, qualcosa comunque che sia successo nel corso della settimana. 800 24 00 24 è il numero per prenotarsi, diciamo, e concorrere. E primo indizio, vai Laura, diamolo. È scattante. Il personaggio della settimana è scattante. Il numero verde è quello che vi ho appena indicato, 349 238 6666, invece per i messaggi SMS o WhatsApp, ma non per concorrere. E a questo punto, giusto per farci, no, un altro po' di cultura, un po' di, no, spizzicare, com'era, le spigolature, ecco, certo, della, hai parlato di settimana enigmistica, io farei qualche spigolatura sui locali storici d'Italia con Gabriele Conta, che è il curatore appunto di questa guida, la 44esima, che è stata presentata nel corso della settimana. Buongiorno. Buongiorno Laura. Buongiorno. Allora, qualche curiosità, insomma, io ne ho lette alcune, sono veramente fantastiche. Quest'anno la guida, la 44esima guida ai locali storici d'Italia, è centrata sulla mixology. Intanto diciamo cos'è questa mixology, che, come ammettete, è un termine un po' bruttino, in italiano non suona benissimo. Comunque. Sì. Effettivamente sì, è quella che in italiano si chiama l'arte del miscelare, diciamo così, con un giro di parole un po' più elegante, meno sintetico del termine inglese, ma sicuramente più bello. Ammazzarsi di cocktail, diciamo noi a volte, ma ovviamente questa è un'espressione troppo forte, troppo esagerata. Senza ammazzarsi. Esatto. Senza ammazzarsi si possono. Meglio che abbiamo. Se ne possono provare moltissimi, se ne, qui poi dopo, no, ne raggruppate una bella serie, però ci sono anche delle curiosità, no? Si apprende un po' di tutto, perché c'è anche la storia dei locali nei quali si fanno questi cocktail. Beh, assolutamente sì. Beh, innanzitutto partiamo dall'associazione Locali Storici d'Italia, che riunisce più di 200, sono 213 quest'anno, locali sparsi appunto per tutto il nostro paese, che hanno almeno 70 anni di storia e che conservano gli ambienti, gli arredi originali o comunque che testimoniano le origini del locale e che sono stati protagonisti appunto della storia italiana e hanno documentazione, ricordi, cimeli, fotografie di questi avvenimenti e frequentazioni illustri. Ogni anno l'associazione pubblica una guida di questi alberghi, ristoranti, caffè, protagonisti appunto della storia d'Italia, e quest'anno è dedicata all'arte del miscelare, ai cocktail appunto, ai cocktail, ai liquori, agli amari, ai distillati che si trovano, che sono nati, che sono famosissimi, che sono nati in questi locali storici d'Italia. Ma come sono? A che punto siamo dal punto di vista dei locali storici? Nel senso che giustamente c'è la questione dei cocktail, ma direi che la parte più bella di questa guida è scoprire anche sotto casa dal Camparino, visto che noi siamo a Milano, all'Harris Bar a Venezia, ricordare le storie di chi ci è passato, da Hemingway, così, giusto per nominare uno che di cocktail ne ha bevuti parecchi. Sì, ce ne sono, si scopre veramente la storia d'Italia e non solo. Pensate appunto, abbiamo citato Milano, il Camparino, è uno dei più famosi, un tempio, diciamo, no, dei cocktail italiani, è un simbolo della cultura milanese e qua l'aperitivo nel 1915 è diventato leggenda, era frequentato da Verdi, Puccini, Marinetti, Boccioni, e ha costruito la sua fama anche grazie a un sistema innovativo che garantiva, pensate, all'inizio del Novecento un flusso continuo di acqua gasata direttamente dalle cantine, e quindi si poteva offrire un Campari soda sempre perfetto. Ma a Milano un altro bar famoso è Bar Giamaica, è famoso, sì, molto famoso. E che tiene, scusami, ho scoperto dalla vostra guida che detiene un record straordinario. Se non sbaglio, è il bar con più debitori, con più persone che devono finire di pagare, diciamo, l'ultimo giro. Esatto. Sì, è il più non pagato, diciamo così. Conserva tutto un elenco di questi debitori illustri che, pensate, inizia con Mussolini. Sì. Perfetto. È il primo che ancora. Che tra l'altro è anche il più consistente, credo, no? Come debito, mi pare di ricordare. Dice che passerà comunque. Ti faccio l'ultima domanda stupida, forse è la 44esima edizione. Ecco, si modifica molto. Che cosa succede? Ci sono alcuni locali che forse prima non erano storici, poi sono passati 40 anni e quindi sono diventati storici. Che cosa cambia di edizione in edizione? Sono 70 gli anni di storia che devono avere per entrare a far parte dell'associazione, almeno 70. Sì, ogni anno la guida si modifica, è dedicata a un tema nuovo, ci sono nuovi ingressi, ci sono anche alcune uscite. Quello che rimane, diciamo... Uscite uguale, come mai? Uscite perché chiudono? Purtroppo capita anche questo. Visto che siamo in periodaccio, diciamo, volevamo anche capire se c'era... L'emergenza COVID, esatto. Ha messo a dura prova, è messo a rischio, pensate, se sommiamo insieme tutti gli anni di tutti i locali che fanno parte dell'associazione, arriviamo a 40.000 anni di storia. Sono sopravvissuti alle guerre mondiali, alle guerre di indipendenza, ai pagherò di Mussolini e di tanti artisti che magari hanno pagato anche lasciando loro opere che qui sono conservate. Però appunto il coronavirus rischia di rivelarsi la loro caporetto. Insomma, l'associazione ha lanciato l'allarme scrivendo al Presidente del Consiglio, al Ministro dei Beni Culturali, per fare in modo che si salvaguardino. Certo, possiamo sostenerli anche visitandoli, no? Quindi, o comprando la guida. La guida è gratuita. Perfetto. Potete trovarla frequentando quando andate in uno di questi locali, potete chiederla, vi viene consegnata gratuitamente, oppure più semplice, scaricate un'applicazione per smartphone, per tutti gli smartphone, Locali Storici d'Italia, anche questa è gratuita. È geolocalizzata, l'attivate nella città dove siete, Milano, Firenze, e scopriamo quale locale abbiamo vicino. Solo buone notizie, direi. Siamo molto contenti di aprire con questa buona notizia. Grazie mille. Gabriele Conta, curatore della guida locali la guida ai locali storici d'Italia, c'è la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, for the wonderful world. E andiamo adesso in Puglia, per conoscere un imprenditore che ha avuto un'iniziativa, Carlo, davvero, no? Interessante. Sì. 300 euro di bonus al mese ai dipendenti che avranno un figlio, e questo l'ha deciso dopo aver già concesso un incentivo, una tantum di 6.000 euro a coloro che appunto avranno un bambino tra i suoi dipendenti. Lui è Vito Antonio Colucci, fondatore e titolare del gruppo industriale Plastic Puglia, ed è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dottoressa, e buongiorno a Radio 24. Grazie, anche buongiorno a lei. Barone Colucci, buongiorno di nuovo. Barone Colucci, allora, questa è una bellissima iniziativa che prosegue, no? Quella che lei aveva già deciso lo scorso anno con questo incentivo una tantum, non le sembrava abbastanza? Voglio dire che ritengo un fatto molto importante dopo aver avvertito che le nascite praticamente sono carenti. Io sono partito a pensare con i dipendenti della mia azienda, che oggi sono oltre 180, e ho visto che non nascevano i figli, al che mi sono allertato e ho detto devo trovare un sistema per far nascere i figli, diciamo, ai dipendenti della mia azienda. E così ho fatto. Come ha detto lei, circa quasi un anno fa, pensai di elargire in busta paga una somma di 6.000 euro per ogni dipendente che avesse un figlio. Ma è stupendo. Ma come sta andando? Staranno tutti facendo l'amore tantissimo lì in azienda? Allora, i ragazzi incentivati da questo, diciamo, da questo bonus, se vogliamo anche un segnale di incoraggiamento, sono, diciamo, fino adesso sono nato già 3 figli, ma ora ho visto che in cantiere ci sono circa altri 10 figli che stanno per arrivare. A questi 10 figli che arriveranno ai dipendenti, io ad ogni dipendente, come dicevo prima, elargirò questi 6.000 euro, inoltre darò 300 euro al mese per un anno. E così sono sicuro che potrò avere io come imprenditore una generazionalità per quello che riguarda la mia azienda, ed è una cosa molto buona. Come voi sapete, già nella mia azienda ci sono figli di dipendenti che... Quindi generazioni che si seguono in azienda? Sì, sicuramente sì, anche perché la mia azienda ha compiuto 53 anni. La pasticcuglia che io fondai già nel 1967, oggi compie 53 anni, diciamo, e vedo che questo segnale che io ho dato, se mi consentite, è un segnale molto importante, e ho visto, diciamo, la controtendenza fra il non nascere e fra il nascere. Questo ci sembra veramente straordinario, perché giustamente, no, spesso si dice che forse lo Stato dovrebbe aiutare le famiglie che hanno figli invece che lamentarsi che non ne fanno, e lei ha deciso in qualche modo di, più che di sostituirsi, se mi permette, di dare il buon esempio, io spero, perché speriamo che non dobbiamo affidarci per forza solo al buon cuore dei singoli, ma che sia lo Stato a farlo. E poi ho una domanda stupida che le devo fare: coi gemelli come si fa? Cioè, se sono 3? Sì, se sono 3 bisogna purtroppo dare 3 bonus. perché io ho detto, per ogni dipendente, giusto, per ogni dipendente che facesse un figlio, 2, 3, e purtroppo gli aiuti devono essere diciamo logici. Certo. Ma come diceva lei, questo mio segnale che ha dato poi un risultato positivo, io credo che può essere un modo di spunto, un principio per far riflettere allo Stato, se vogliamo. Certo. Perché come voi sapete abbiamo una decrescita annuale spaventosa del 4, io ho fatto poi uno studio del 4,5%, quindi ogni anno la popolazione italiana decresce del 4-5%, il che significa che di questo passo noi arriveremo a non avere più, diciamo, italiani, se vogliamo, in Italia, ed è una cosa gravissima, perché voi tutti sanno che la prima cosa che bisogna sostenere, se vogliamo salvaguardare l'economia di uno Stato, è le nascite, cioè sostenere le famiglie. Poi bisogna anche sostenere che restino qui, perché molto spesso poi magari nascono, ma stava ricordando, poi vanno all'estero. Vede, se nascono gli italiani si incrementa il lavoro, è certo. Automatico che non partono. C'è di più, e io ho pensato che tutti pensino che io con questo sistema vado a creare uno sviluppo demografico, nella nazione e quindi anche una, diciamo, una riduzione dello del debito pubblico e con un incremento del debito pubblico. Certo, perché lei produce contribuenti praticamente. Sì, e bravo, quindi ne non siamo... solo economia dello Stato. Ma non sono obbligati a lavorare poi da lei, giusto, i figli? No, no, non è un, no, diciamo, no, un anticipo di stipendio? No, no, era una battuta. Una predisposizione al posto fisso. Certo. Al posto fisso. Le devo dire un'altra cosa che deve essere, prego, molto chiara. Io, per salvaguardare, diciamo, gli interessi dell'Italia, dello Stato, vorrei che lo facesse il governo. Perché se così si facesse, io sono convinto che il debito pubblico che abbiamo noi si riducesse, anzi sia nel corso di massimo 6-7 anni, da essere negativo potrebbe accadere di essere positivo. Mi sembra veramente molto ottimistica come visione, però è bello, magari che sia ottimistica. Esatto, magari saranno più di 6 anni, ma sicuramente la direzione è questa. Perché, vedete, voi dovete riflettere bene, se lo Stato dovesse, diciamo, facciamo un'ipotesi, istituire la professione mamma, che perché le mamme, diciamo, quando fanno un figlio diventano automaticamente lavoratrici dello Stato, perché noi italiani siamo tutti figli dello Stato. Allora, come lavoratrici dello Stato, lo Stato ha il dovere di retribuire le mamme come vere operatrici. O i babbi, nel senso, chi rimane a casa con i figli, diciamo. Cosa pensa del reddito di cittadinanza? Così. Ovviamente, no, il reddito di cittadinanza, io non, no, perché io, scusa, il reddito di cittadinanza io non lo darei per un semplice fatto, mi dovete consentire, perché non vorrei rischiare di creare, diciamo, parassitismo, voglio dire, certo, zuzzurullonaggio, cioè nel senso vagabondaggio. Invece bisogna dare i soldi a chi lavora, non, anche perché il lavoro per ogni persona è un motivo di vita, è una dignità umana. Il lavoro prima di tutto. Grazie. A prescindere di quanto dare, giusto. Di più o di meno. Io nella mia azienda ho costituito, se vogliamo, un piccolo Stato nello Stato, senza peccare di presunzione. Se potesse lo Stato, il governo, prendere esempio da quello che faccio nella mia azienda, io credo che la nostra Italia diventerebbe uno dei primi Stati economici e civili del mondo. Ovviamente senza nulla togliere ai politici, perché certo, non vuole essere una presunzione, non vuole essere certo. In mio modo. Certo. Dobbiamo salutarci, Barone Colucci, perché c'è GR24, è stato un piacere parlare con lei. Allora, buon lavoro, buon proseguimento, ci saluti i suoi dipendenti, a tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo qui, Carlo, che bello vederti qua, mi piace scambiare anche due parole quando, non so, c'è il giornale radio, è diverso, è no? molto diverso. Ma a me piace anche semplicemente sentire il fatto che si senta bene la voce, che da sì, casa anche avevo quello, sempre le cuffie, quell'ansia. Il microfono che funziona, no, è tutta un'altra roba. È vero. Allora, vogliamo ricordare anche il nostro indovinello, perché sì, signori, c'è spazio come... per chiamare. C'è spazio, ma è l'ultima domenica, ricordiamo, di questa stagione, quindi approfittatene come tutte le domeniche. Cerchiamo un personaggio della settimana, quindi che ha una notizia legata avvenuta in questa settimana. Come diceva prima Laura, può essere uomo, donna o cosa, non è importante. Noi parliamo sempre in generico il personaggio, e il primo indizio che abbiamo già dato è che è scattato. Tante. Quindi, il che mi fa escludere la cosa, per esempio. Chi lo sa? Chi ah, lo sa? Un'auto, potrebbe. Magari. Laura, vabbè, come sempre, è la più buona dei due, e quindi giustamente, ma sì, è giusto, è vero. Scartiamo la cosa, è scattante. E tu, Laura, decidi quando darò il secondo indizio. Ricordiamo solo 800 24 00 24 per dirci chi è secondo voi e portarvi a casa un libro. Nel frattempo, il libro è, lo ricordo, aspetta che lo devo leggere per benino perché non ho ancora ben imparato. Comunque, il libro è della collana Il lato divertente di imparare giochi attivi, giochi e attività per allenare l'intelligenza emotiva dei più piccoli. Quindi, insomma, chi ha figli, chi ha nipoti, chi ha bambini vicini di pianerottolo, ecco, insomma, vale si tutto. Può cimentare, si può cimentare, o comunque chiamarci all'800 24 00 24. Nel frattempo facciamo un pensierino anche sulle vacanze che ci aspettano. Quest'anno va tanto di moda la vacanza a piedi, non so se tu ci hai mai pensato. C'è un bel cammino, una cosa di quelle che ti tengono, no, in attività, ma ti portano di luogo in luogo. Ultimamente, tra l'altro ultimamente è tornato anche in auge per il Covid. In realtà io ultimamente meno, ma feci il cammino di Santiago, quindi sono assolutamente affascinato. Sì. Ecco, adesso te ne puoi fare in Italia con il Touring Club, che ha lanciato un programma specifico sul territorio nazionale volto alla valutazione e certificazione anche dei cammini e dei percorsi in Italia. E con noi Isabella Andrighetti, buongiorno. Isabella Andrighetti, ci sente? Sì, mi sentite? Ah, eccola qua, sì, responsabile. Grazie. Certificazioni e programmi territoriali del Touring Club Italiano. Buongiorno, allora di nuovo, adesso ci siamo. Buongiorno. Sicuramente. Allora, come funziona e poi come si certifica un cammino? Cioè, che cosa si va a certificare in un cammino? Certo, questa iniziativa innanzitutto nasce da 22 anni di lavoro svolto già nel territorio italiano, andando a certificare piccoli centri e borghi attraverso l'iniziativa Bandiere Arancioni, che andava proprio a valutare la qualità turistica ambientale di queste eccellenze. Ma di cui detto... infatti abbiamo parlato in passato, e questo ci sembrava un giusto coronamento delle Bandiere Arancioni. Esatto, perché proprio da lì nasce l'idea invece di ampliare la riflessione. E come Touring Club Italiano, che è appunto l'associazione privata che si prende cura dell'Italia come bene comune da 125 anni, abbiamo deciso di dedicare questa attenzione speciale ai cammini, ai percorsi, alle vie, proprio per la convinzione che il turismo lento, in particolare quello a piedi, rappresenti poi questa enorme opportunità per il nostro paese. Di fatto proprio l'idea è quella di andare ad individuare i percorsi d'eccellenza che possono innanzitutto avvicinare anche un pubblico ampio e vario rispetto all'attività del camminare, e quindi offrire esperienze di viaggio eccellenti, autentiche, ma che valorizzino il territorio a 360 gradi. Quindi vi dico un po' come si fa poi ad analizzare questi percorsi. Ce n'è già di certificati, ce n'è uno primo, vero? Esatto, che è il sentiero del viandante, che è il primo certificato. Che sono 50 chilometri intorno al lago di Como, è giusto? Il lato orientale del lago di Como, certo. Da Badia Lariana a Piantedo. Ed è il primo che abbiamo appunto valutato positivamente. Che è un cammino anche che, diciamo, fattibile, essendo 50 chilometri, insomma, in tre giorni camminando. Giorni. Esatto, esatto. Diciamo 4 se si vuole godere poi a pieno anche di tutto quello che offre il territorio. Quindi parliamo anche dell'esplorare i piccoli centri che vengono attraversati, piuttosto che andare ad assaporare anche. Ma c'è anche qualche consiglio locali. Per dormire? Ci sarà o mangiare? Sì, assolutamente. Sì. cammini che vengono certificati da Turing valutano anche proprio tutto il sistema di ristorazione e di accoglienza, perché deve essere di fatto funzionale e facilmente raggiungibile dal percorso, dal tracciato. Ecco, questo forse va anche è giusto ricordarlo, perché spesso uno si immagina che il cammino debba essere una cosa un po' per esperti o invasati o gente che è disposta a dormire sugli alberi. Invece non è così, noi parliamo di cammini, ripeto, prima accennavamo al Cammino di Santiago, che comunque ha tutti gli ostelli dove si dorme e non è che si rimane alla ghiaccio, e credo che similarmente nei vostri cammini ci sono appunto vari modi di fare il cammino, sia se uno lo vuole fare in maniera più intensa, sia se uno invece magari ha anche dei figli e vuole fermarsi in un alberghetto. Sì, l'obiettivo è proprio quello di avvicinare un mondo, appunto quello della vacanza a piedi, a un target più ampio possibile. E questo lo facciamo proprio andando ad individuare quei cammini che sanno poi rispondere ad esigenze e bisogni vari, anche in termini di accoglienza, e quindi anche una varietà dell'accoglienza, perché no soggiornare, dormire anche in una struttura magari con più stelle piuttosto che in una struttura più povera, dipende, certo, proprio dalle esigenze specifiche di ciascun nuovo camminatore, chiamiamolo. Ma ci sono tanti cammini in Italia? Infatti anche io questo volevo chiedere, poi quando arrivano le prossime certificazioni, le prossime puntate, così almeno Certo, c'è un mondo da esplorare, siamo appena partiti e quindi questo è il nostro primo cammino certificato, ma stiamo già affrontando nuovi territori. L'Italia è veramente, da questo punto di vista, offre tantissimo. L'obiettivo è anche quello però di in qualche modo accompagnare i territori a migliorare, no? E quindi strutturare un'offerta adeguata per questi nuovi viaggiatori, che sono sicuramente un fenomeno crescente. Ma e io quindi vi auguro di risentirvi a breve per raccontarvi sicuramente di qualche nuovo certificato, magari anche nel centro-sud Italia. Certo, ma è una curiosità invece che riguarda il suo specifico lavoro. Lei si occupa proprio di questa certificazione, no? Quindi va in giro e dice: fatemi un po' certificare, voglio vedere la locanda, voglio vedere il bed and breakfast, vorrei capire così. Esatto, una componente del lavoro è anche quella dei sopralluoghi sul campo, dell'esperienza, perché è proprio il modello che soggiace poi tutta l'iniziativa, il modello d'analisi è proprio pensato dal punto di vista del viaggiatore, quindi di fatto noi dobbiamo ripercorrere quella che è l'esperienza stessa, e quindi c'è una parte sul campo, c'è una parte di vissuto molto piacevole, molto stimolante di questo lavoro. Grazie molto a Isabella Andrighetti, responsabile appunto certificazione dei programmi territoriali del Touring Club Italiano. Allora adesso noi abbiamo la viabilità, quella in auto, non a piedi, ci troviamo dopo. Grazie. Si può fare. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh. Abbiamo detto che è scattante il personaggio della settimana. Secondo me possiamo dare il secondo indizio, Carlo. Tu mi hai detto quando darti il via e io ti do il via. Dai, mi sembra il momento giusto. Mi sembra assolutamente giusto. Il secondo indizio è che ha cura del passato. Quindi il personaggio che stiamo cercando e che vi permetterà di portarvi a casa un libro è scattante e ha cura del passato. Pensate alle notizie di questa settimana e a che cosa vi viene in mente. Poi buttatevi, insomma. Buttatevi serenamente, sappiate anche che non è una cosa, come ho detto prima. Dai, vi abbiamo dato anche un aiuto in più rispetto a quanto non facciamo di solito. Il numero è l'800 24 00 24. Noi vi aspettiamo. Nel frattempo parliamo di scuola, ma ne parliamo in maniera, diciamo, un po' diversa rispetto a quella che insomma Uffa, mi non sono di banchi singoli, no? Esatto, volevo dire, non parliamo di banchi singoli, tantomeno di banchi con le rotelle, parliamo di banchi nel bosco, forse in una certa misura, o di banchi al mare, o di nuove scuole. Di nuove scuole, perché la Regione Lazio è la prima ad attuare il decreto legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni. E oltre alle nuove norme per gli asili nido, i micronidi, le sezioni di primavera, bene, si aggiungono i servizi educativi sperimentali in natura, come l'asilo del bosco o l'agrinido o in luoghi di lavoro. Ne siamo particolarmente contenti perché spesso abbiamo parlato di queste diverse forme di educazione legate alla natura e sempre il problema è sempre stato che le istituzioni non le riconoscevano molto, quindi siamo molto contenti invece di partire da una legge, da la Regione Lazio che per prima si fa portatrice, ci mette anche dei bei soldini, ci mette perché... anche dei soldi, esatto, e si spera che diventi apripista per tutto il paese. Ne parliamo con chi se non Danilo Casertano, che in questo caso è stato consulente pedagogico appunto per questa legge della Regione e anche per Lazio. Questa trasmissione possiamo dire, sì, ne abbiamo bisogno. E anche per voi personalmente, se volete mandate il numero, Sì, io verrei all'asilo nel bosco, non so, sono un po' fuori età, però beh, a noi ci ha insegnato che questa cosa è possibile, che non è per forza una cosa da fricchettoni, che non è una cosa così da sognare, che non... e finalmente la vediamo in una legge della Regione Lazio, quindi ne siamo molto contenti. Ma ne sono assolutamente entusiasta e la cosa che vi voglio dire è stato buffo, perché un anno fa quando incontrai Eleonora Mattia, andai a fare un'audizione alla Regione Lazio, a un certo momento conoscete la mia serenità e quindi, tanto per poter essere così leggero e diciamo leggermente diretto, dissi: ma per una volta un'innovazione la facciamo noi del Lazio e non dell'Emilia Romagna. Quindi ho proprio toccata sul sentimento patriottico di Roma e suburbe. Molto e devo giusto. Dire che la Mattia si mise a ridere. Vabbè, si è funzionato, però adesso lo facciamo tutti. E ha funzionato perché poi dopo con quella risata forse si è liberato anche un po' un peso di alcune cose, abbiamo cominciato a lavorare. E devo dire che appunto dopo un anno, quando poi nel decreto ministeriale, quello di Sua Maestà, di Conte, quando è uscito, no, Outdoor Education, abbiamo avuto un sussulto nella forza. Abbiamo detto: mamma mia, è uscito su un DPCM, allegato 8. E questa cosa ha smosso tutta la Regione Lazio, che erano 40 anni che aspettava la legge, erano 40 anni, perché le cose noi nel Lazio le facciamo con calma e ponderate. E però ha dato un'accelerazione a tutti i partiti che hanno detto: no, aspetta, oddio, Outdoor Education, allora si può fare. E poi la domanda è aumentata, perché comunque anche la task force del MIUR aveva lavorato su questo. E quindi veramente, se questo Covid, che si è portato via un pezzo della generazione del Novecento importantissimo e ci ha lasciato delle ferite, se ci portasse via anche un po' la scuola, un pezzo della scuola del Novecento, noi saremmo contenti. Il pezzo brutto, sono molto d'accordo, hai usato parole precisissime e tra l'altro credo che hai anche un po' spiegato come funziona la politica, che è un mix di competenze ma anche di entusiasmo è vero. Anche un po', se vogliamo, visto che parli del passato, l'Italia dei comuni, sì, esatto, competitività, ma è anche un'Italia costituente, però ragazzi, sana, cioè, esatto. Un momento anche costituente, noi lanciammo durante il lockdown il movimento di scuola costituente e devo dire che proprio a livello proprio trasversale, il terzo settore, le associazioni, pezzi di politica destra, sinistra, centro, sopra, sotto, avanti, erano tutti quanti d'accordo. Ora la cosa importante è che dobbiamo continuare, perché ecco, questa adesso legge spiegaci. È il primo passo. Esatto, legge, cosa bisogna cambia? Fare qualcosa. Esatto. Allora, non trovare l'inganno, ma direi esatto, trovare esatto. L'ingaggio a esatto, questo punto. Allora, guarda, hai proprio usato le parole giuste. Allora, questo è un inizio. Che noi appunto ci auguriamo che questo seme che abbiamo piantato nel Lazio, come succede a alcune piante pioniere, come ci insegna Mancuso, nel momento in cui arriverà un po' a frutto i semi voleranno, che loro non hanno confini, non gli chiedono manco il passaporto quando girano e attecchiranno da altre parti. Ora la questione è che bisognerà gestire la complessità, infatti adesso io vi lancio già la prossima sfida e magari ci sentiremo tra qualche tempo sperando che anche questa nuova sfida avrà funzionato, perché il tema qual è? Se tu cambi completamente i luoghi e vuoi andare su scala e quindi lo vuoi fare anche nelle città dove ovviamente non è che abbiamo un ettaro bambino, ma magari appunto abbiamo però i parchi, abbiamo i giardini degli oratori, abbiamo gli spazi delle associazioni, quindi dobbiamo veramente entrare in una nuova logica tecnologica e dobbiamo usare queste piattaforme digitali. Io ne sto studiando una, l'abbiamo quasi già realizzata una, per gestire la complessità delle prenotazioni di queste aule all'aperto. E questa sarà veramente la prossima sfida. Ma quindi concreta questa cosa? Scusami, è concreta. Nel ragazzi, senso che tu ne sai molto, invece noi e anche i nostri ascoltatori, no, ve lo spiego, nello specifico abbiamo bisogno di capire. Secondi. Vai. Devo fare una citazione di una società che si chiama appunto Airbnb, però voi immaginate che Airbnb e LinkedIn si mettono a disposizione della scuola e dicono: ok, quali sono i professionisti che ti servono? Quali sono i luoghi che ti servono? Allora, io comunità educante, io ti metto a disposizione questi luoghi, ti metto a disposizione queste persone, quindi bisognerà fare di questi patti, e noi li stiamo già lavorando col 10° municipio di Roma, con la città di Biella, cioè abbiamo tante trattative in questo momento in vari luoghi d'Italia, dove si parte dal patto educativo di comunità, cioè per darti una metafora, come fanno i bambini, chi vuole giocare mette il dito qui sotto. Quindi chi ha un luogo, chi ha una professionalità da mettere a disposizione alla scuola per ripartire a settembre, ce lo dice, lo mettiamo su questa piattaforma, a quel punto tu hai il gemello digitale del luogo che diventa prenotabile. Perché vi dico questo con grande forza? Perché noi dobbiamo capire che natura e tecnologia non sono in antitesi, possono esserlo e creare dei disastri incalcolabili, oppure possono collaborare. Noi parliamo infatti sempre di tecnofilia e di biofilia. È un'amicizia, è una Giusto. Questione di fare amicizia tra questi due mondi diversi. E forse proprio grazie a questa legge, visto che ci saranno tantissimi comuni, tantissime persone che nel Lazio e in Italia stavano aspettando questa cosa, noi adesso dobbiamo avere il buon problema, no? Quello che la domanda supera l'offerta. E ma poi perdonami, sei stato precisissimo, nel senso che da un lato abbiamo i luoghi, dall'altro i professionisti. Quello che mi chiedo è gli utenti, cioè sono i comuni che si devono attivare o è il singolo genitore che dice io vorrei? Allora, la cosa bella di un patto educativo di comunità è che chiunque può dire io voglio un patto educativo di comunità. Quindi noi abbiamo esempi in cui ci sono associazioni di genitori che stanno rompendo le scatole, in altri casi sono cooperative, in altri casi sono comuni, in altri casi sono scuole statali. La questione è che bisogna individuare il luogo di prossimità. Quando tu hai detto comune, hai detto una cosa importante, perché comune è parente di comunità. Quindi quando una comunità vuole si realizzano delle cose incredibili. Io ho degli esempi straordinari. In paesino vicino in Treviso hanno realizzato, si chiama la scuola del fiume, è praticamente sul Piave, un'intera comunità, parrocchia, sindaco, imprenditori locali hanno dato vita a un'esperienza pazzesca, donando un sacco di soldi e trovando persone che non andavano lì anche ad aiutare. Cioè, ci sono degli esempi virtuosi. Ora, per fortuna, la domenica mattina ci siete voi che le raccontate, ma questo paese è pieno di cose straordinarie e che però devono aumentare la domanda. Avete visto? Noi ci siamo sentiti altre volte, perché la domanda aumentava e alla fine questa cosa può arrivare anche ai decisori politici, ma dobbiamo credere e dobbiamo domandare questi patti educativi di comunità. E io lo dico sempre, noi come associazione, come insomma luogo di raccolta di tutte queste domande, e poi ci facciamo, aiutiamo gli stakeholder, andiamo lì, abbiamo proposte per sindaci, per chiunque, anche perché ormai i modelli ci sono, no? Siamo di Bosco e di Riviera. Dicevo, i modelli ormai ci sono, no? Quindi si può arrivare con delle proposte concrete, non a dire pensiamoci insieme e tiriamo fuori qualcosa. No. Il tempo è buono, come vedete le cose stanno cambiando, certo, io la racconto così, ogni volta è una fatica, cioè ci abbiamo messo un anno con la Mattia per portare a casa solo questa cosa ed erano 40 anni prima, ma io credo che in questo momento c'è un'accelerazione. Poi ragazzi, io sono malato di una malattia gravissima, si chiama ottimismo e voglia di fare, purtroppo è inguaribile, me l'hanno dato i bambini, è un virus che mi hanno inoculato loro, non avevo il vaccino su sta cosa. È un virus evidente, la cosa bella è che è evidente e lo mostri contagioso, ed è bravissimo. Senti, ma per allora manteniamo il tuo ottimismo ma cambiamo la domanda. Che cosa pensi della scuola che verrà? Sta un po' a te decidere quanto vuoi parlare di banchi singoli con le ruote, allora, e quanto delle scuole. Allora, io credo che bisogna avere una visione, no? Il problema è che quando si prendono i singoli aspetti, no? Cioè la vita è fatta a livello pedagogico, no? Di visione, poi ci sono metodi, strumenti, tecniche. Il banco è uno strumento, quindi è ovvio che in questo momento storico, se parliamo solo dello strumento, non diamo alle persone quello che vogliono, che è una speranza e una visione. Ora io non lo so se ogni volta che la ministra parla, io credo che ci sia anche qualcuno che va a prendere soltanto i vincoli, punti e virgola e altre cose, no? Io ho avuto questa esperienza durante il lockdown di parlare con la task force, di collaborare esternamente, e devo dire che anche lì, cioè tra il volume di cose che si pensano e si scrivono veramente e quelle che poi la comunicazione passa, non è sempre così facile. Io credo che c'è molta paura oggi, perché comunque le percezioni sulla reale incidenza del Covid in questo momento a settembre veramente ci sono pareri troppo discordanti. Io infatti mi concentro su una cosa, cioè io mi concentro su quelle persone che se la sentono, che vogliono fare delle cose, e noi dobbiamo raccontare e dire: guardate, a Napoli i maestri di strada hanno fatto delle cose molto importanti collaborando con le scuole, a Ostia le scuole naturali hanno fatto altre cose. Dobbiamo concentrarci su delle cose che sono paradigmatiche. La sedia non è un paradigma, cioè la sedia è uno strumento, e utile, cioè siedi. Senti, che è un po' il discorso che ci ha fatto ieri Don Mazzi, se non, no? Cosa ci serve il banco, dice lui, ci possiamo anche sedere per terra, l'importante, sì, esatto, è quello che vogliamo fare, non se lo facciamo sul banco esatto, a volte per però io credo che dirottare l'attenzione sul banco o su altre cose, perché non si ha il coraggio di abbracciare invece la visione, perché poi abbracciare la visione è un'altra cosa, perché poi dopo la devi fare, cioè sai, sul banco possiamo dire sì, no, boh, anche, più o meno. Hai ragione, è anche più difficile quando ti devi occupare di tutta Italia, nel senso che nel momento in cui tu hai quella classe, quei 100 ragazzi, quella situazione, nel momento in cui sei il ministro e devi trovare una soluzione per tutti, ti viene da dire: pigliamo 3 milioni e mezzo di banchi, che effettivamente non sembra... Senti, ti devo però chiedere un'altra cosa, molto rapida, visto che prima parlavi della paura, che è uno degli elementi, secondo me, dei più pericolosi. Scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice: sono appena stata nel mio orto e sono rientrata in casa con un buon numero di punture di insetti vari, senza considerare la muta della vipera che ho visto ieri. Asilo nel bosco? Esatto, esatto. Guarda, io ti dico che sono nelle Marche e sono stato colpito da un simpatico calabrone e sono andato in ospedale, c'ho un occhio, che meno male che questa ma è radiofonia. Così mi terrorizzi, così mi terrorizzi tutti, scusami. No, invece bisogna fare un'operazione verità, cioè nel senso che l'acqua è umida, il fango sporca, gli insetti pungono, il problema è che in Italia anche i soffitti crollano, e quindi non è che stando dentro la scuola siamo sicuri. Cioè non è che noi stiamo dentro la scuola siamo poi così più sicuri. Il tema è che purtroppo questa realtà del Covid o della vita in generale è un biglietto andata e ritorno, e ci sono dei rischi. La questione è che la scuola deve accettare dei rischi ma non dei pericoli. È vero, la vipera può essere, ma l'incidenza di una vipera con bambini che fanno casino è molto difficile che arrivi, e quindi bisogna sempre valutare quello che è un rischio e quello che è un pericolo. La puntura di un insetto, se non c'hai problemi allergici, non va in shock anafilattico una puntura di un insetto, e forse va anche imparata questa cosa, esatto, da un certo punto. Va imparato il dolore, va imparato un dolore ovviamente sopportabile, ma conoscenza, va portata la fatica. Anche la conoscenza, perché tanti bambini hanno paura degli insetti, hanno paura di quello, hanno paura dell'altro. Ce l'hai qua nello studio con te, ce l'hai qua in studio con te un bambino che ha paura di tutto, e sono io. No, ma dobbiamo veramente tollerare la frustrazione. Sei un bambino di città tu? Non sei un bambino dell'asilo del bosco? No, ma guardate che io sono cresciuto giocando a pallone per strada, cioè io pensavo che esisteva l'albero delle olive bianche e l'albero delle olive nere, cioè io la natura me la sono andata a cercare perché capivo che avevo un buco gigantesco. Hai risposto benissimo, direi, sulla questione della paura. Ti ringraziamo. Esatto. Sì, sì, ti ringraziamo veramente tanto, e ben felici di risentirci settembre, esatto, ottobre. Ovviamente se ti inventi qualche cosa. Nuova rivoluzione, esatto. Alla prossima grande rivoluzione. Ciao ragazzi. Grazie Danilo, Danilo Casertano. Grazie. Abbiamo un concorrente per indovinare il personaggio della settimana. Aspetta che recupero, eccola qua. Adriana da Roma, buongiorno. Buongiorno. Salve. Allora, senta, io volevo indicare come personaggio la regina Elisabetta d'Inghilterra? Sì. La sovrana. Sovrana, dici la notizia. Perché sono ormai 25.000 giorni che è lì al trono. E quindi scattante lo è, perché ho visto che alcuni giorni fa si allena ancora sul cavallo nella sua residenza e riesce a fare anche ancora questo cavallo? Sì, l'ho visto anche a cavallo. Ma questo mi è sfuggita. Questa è un'altra cosa, ma che la seguo, però diciamo, siccome ha appena fatto 94 anni, diciamo. Sì, c'è una foto, me la sono presa su Facebook. Ah, perfetto. Quindi resta veramente... E poi dice lei, a cura del passato, vabbè, l'età, certo, come mi... Più che a cura del passato è che l'ha creato lei, quindi... Sì, ormai sentiamo il nostro notaio. No, vabbè. Non era lui. Purtroppo non era lei, però siamo contenti di aver ricordato i 25.000 giorni di regno, credo il regno più lungo sicuramente della persona tuttora viva e regnante. Ah, questo senza dubbio. E grazie di aver chiamato. Adriana, grazie molte, davvero. Buona domenica, allora, alla prossima. Adesso abbiamo una piccola pausa, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo parlato di scuola per i bambini 0-6 anni, adesso parliamo ancora di percorsi di formazione, però per giovani adulti, qui andiamo a 18-29 anni. Percorsi di orientamento e formazione dalla Road Job Academy. Mauro Califano è l'ideatore di questa Road Job Academy, che bello scioglilingua che mi avete messo, e quindi ci dirà un po' di più di che cosa si tratta. Buongiorno. Sì. Buongiorno a lei. Lei non si inciampa mai nel dire Road Job. Job. No, poi a un certo punto lo dirò io con l'R moscia, ma comunque. Ho fatto già una serie di esercizi, sono già abituato. È proprio una questione di Road Job, ripeterlo molte volte. Road Job perché dà un po' il significato del percorso, il percorso del lavoro e la necessità di avere poi delle figure professionali che diano tutto quello che hanno imparato durante un percorso che abbiamo ideato nel tempo insieme a N aziende, sono per la nostra associazione ormai 18 aziende che hanno aderito alla nostra associazione, e quindi avere quindi queste persone, queste figure professionali che saranno poi quelle che potranno dare effettivamente un contributo forte al territorio e quindi alle aziende di quel territorio. Ma come funziona? Il territorio, stiamo parlando della Brianza, ecco. Como, Lecco, insomma stiamo parlando di quest'area, giusto? Esatto, quindi il territorio è un territorio che dal punto di vista associativo non è molto generoso. Non è generoso. L'Italia, è quell'area lì, però c'è una forte presenza comunque di imprese. Sì. E qui si dà un percorso gratuito di orientamento gratuito e formazione a persone di quell'età lì. Carlo, stavi dicendo? No, ero curioso di capire come funzionava, nel senso che se ho capito è un percorso, mi perdoni se sbaglio, è come se fosse uno stage allargato, cioè uno stage con diverse possibilità, perché ci sono 18 aziende, quindi le aziende cercano delle figure professionali, delle persone immagino che invece cerchino lavoro e vogliono avvicinarsi, e voi li aiutate sia ad orientarli in quale direzione o quale settore all'interno di queste aziende potrebbero occupare, sia a prepararli, giusto? Beh, direi che sì, ha riassunto in maniera abbastanza generale quello che di fatto noi stiamo svolgendo. Le posso dire quello che è stato fatto nel 2019, e adesso comunque si sta approntando comunque un analogo percorso decisamente con alcuni aspetti un po' diversi dall'anno precedente, perché ci sono state anche evoluzioni nel mercato del lavoro, quindi noi adesso tramite un comitato scientifico andremo a revisionare quelle che sono le posizioni classiche del lavoro. Fate un corso di smart working anche ai dirigenti, già che ci siete. Quello in molte aziende si sta già facendo, e anche per l'azienda per cui io lavoro, io faccio il direttore, in realtà faccio il direttore del personale di un'azienda del territorio, che è un'azienda metalmeccanica, per cui diciamo che anche lì stiamo comunque svolgendo questo tipo di attività. E ovviamente i metalmeccanici è difficile però lo smart working, che cosa fai? Ti porti a casa il tornio? Stiamo parlando di dirigenti, e quindi come tali, insomma, loro non usano ancora il tornio. Giusto. Comunque, ritornando ai ragazzi, lo scorso anno hanno effettuato 2000 ore di formazione, c'erano 70 docenti, hanno fatto 2 settimane di orientamento, 3 percorsi professionalizzanti, ben 20 visite nelle sedi d'impresa. Quest'anno con il comitato scientifico ci proponiamo di fare ancora cose più belle, benché il periodo capiamo tutti che non sia dei migliori, perché il discorso del Covid ha comunque minato parte di quelle che sono state le attività, i nostri programmi. Certo. No? Certo. C'è da dire però che anche in questo campo abbiamo voluto fare un passo in più. Noi abbiamo fatto recentemente un accordo con l'ospedale Fate Bene Fratelli di Erba, e con loro abbiamo messo a punto un percorso, in questo caso, di test sierologici che verranno effettuati gratuitamente, ovviamente, per tutti i ragazzi che frequenteranno questo orientamento. Quindi anche in questo caso ci siamo attrezzati affinché poi tutte le situazioni che avrebbero dovuto comunque confluire verso una attività corsuale in aula potessero essere fatte nella sicurezza e comunque in un ambiente dove tutti si sentono protetti, quindi certo. Mascherine, distanze, banchi. Ecco, qui non voglio entrare nel discorso dei banchi perché probabilmente abbiamo deciso che l'ultima domenica non si parla di banchi, quindi né con le ruote né senza ruote né doppi né singoli, ognuno faccia un po' il banco che serve per stare tranquillo e al sicuro, fatevi i banchi vostri. Ma e comunque l'aspetto direi che diventa secondo me veramente focale è quello per cui noi sul territorio sappiamo bene che in questo periodo molte aziende chiedono la cassa integrazione, però sul territorio noi andiamo a formare delle persone che magari non servono nell'immediato ma possono servire in un immediato futuro, questo sì, e quindi creiamo ricchezza per il territorio insieme, e vogliamo con questo coinvolgere anche le istituzioni, perché credo che se un'associazione e una serie di aziende si preoccupano di formare delle figure professionali all'interno di un territorio che, come voi avete detto, è quello che riguarda Lecco, Como e Monza, quindi insomma tutta la zona che più generale si può definire della Brianza, ecco, io credo che anche le istituzioni in questo caso debbano metterci mano e quindi andare incontro anche dal punto di vista dell'aiuto sociale, economico, per trovare soluzioni sempre migliori per ottenere risultati che saranno sempre all'avanguardia. Questo è certo, il tema principale. Le posso chiedere una cosa? Nel senso che mi sembra molto interessante questo fatto che dice dello Stato che dovrebbe occuparsi di tutto questo. In qualche modo voi siete una sorta di anello di congiunzione fra la scuola dell'obbligo e le aziende. Allora io mi chiedo, ma questo tipo di servizio ottimo che fate voi, secondo lei andrebbe integrata nella scuola, diciamo, per tutti, o comunque dovrebbe rimanere un cuscinetto fra dopo che uno ha finito la scuola e si prepara a entrare nelle aziende? Una bella domanda. Temo che realisticamente la scuola d'oggi, perlomeno in un prossimo futuro, non sarà e non sia in grado quindi di fornire un percorso così specifico. Ecco, per cui è necessario che invece si stringano dei forti vincoli con associazioni come la nostra, che possano di fatto fornire tutta quell'assistenza necessaria, anche perché noi siamo in collegamento diretto con la scuola, con l'università, ad esempio nel comitato scientifico che abbiamo approntato in questi giorni, c'è proprio l'università Carlo Cattaneo, quindi ci sono figure professionali che sicuramente sanno di che cosa si parla nel mondo della scuola, certo. Però come lei ha detto, l'anello di congiunzione dobbiamo essere noi, dobbiamo renderci parte attiva, perché sappiamo che creando delle figure professionali competenti stiamo creando futura ricchezza anche per le nostre aziende. Certo. Quindi, e lo fate anche gratuitamente, vorrei ricordare che questi corsi sono gratuiti. Io forse sto sognando. C'è una selezione, ovviamente. Sì, io sognerei, sì, visto che sono tre mesi e che parte di questi tre mesi, dopo l'orientamento, dopo lo studio teorico, c'è la parte pratica all'interno dell'azienda, l'optimum sarebbe che questi ragazzi fossero anche leggermente pagati. Beh, allora, tanto mi piace leggermente. No, dico leggermente perché qualcuno può dire, vabbè, ma sono le prime quattro settimane di lavoro, insomma, se anche l'abbiamo fatto tutti la gavetta, questo lo possiamo dire, ecco. No, allora, il percorso ha sicuramente un prosieguo nelle aziende e di norma è strutturato attraverso lo strumento dell'apprendistato, per cui una volta che sono stati orientati i ragazzi per il periodo necessario, sia dal punto di vista teorico, ma c'è anche una parte pratica, perché qua si parla di effettuare durante quel periodo di orientamento anche visite nelle aziende per capire di che tipo di attività si sta parlando. Ecco, per questi ragazzi durante l'apprendistato ovviamente c'è una remunerazione, su questo non ci sono dubbi. Vabbè, ecco, allora avete già fatto tutto, non posso dire niente. Non c'è gusto con lei, va bene. Voglio iscrivermi. Va bene, guardi, è dura la selezione. Faremo un canale particolare per gli adulti. Voleva dire prendiamo anche anziani, lo so, e ha ragione. Ti riqualificano. Grazie molte Mauro Califano, Rojob Academy, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Saluti a tutti, salve. Abbiamo una concorrente. Si può fare. Attenzione. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stavo dicendo prima della viabilità che mi ha tagliato così fuori, che c'è una concorrente per il nostro quiz, che è Simonetta, chiamato da Livorno. Buongiorno. Buongiorno Simonetta. Sono i poteri forti che hanno tentato di non farle Capito. Vincere questo premio. Ho sentito, sì, e me ne sono accorta. Ma adesso recuperiamo subito. Sentiamo okay, un po'. Ok, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ci dica tutto. Allora, secondo me è Achille Lauro. Achille Lauro, e qual è la notizia? La notizia, in che senso la notizia? Che di solito c'è una notizia, anzi non di solito, diciamo il nostro personaggio ha una notizia che lo riguarda, avvenuta nell'ultima settimana. Sì, lui ha praticamente presentato il suo disco ultimo che fa riferimento alla musica degli anni 90, ha ripreso molta musica degli anni 90. Quindi lei dice a cura del passato per questo motivo, esatto, ed cioè, è cantante in quanto Achille Lauro. L'abbiamo esatto, visto a Sanremo e tutto. Certo. Ci sta. Sentiamo ci sta. Il nostro notaio. Purtroppo non era lui, ma in realtà la ringraziamo anche di aver ricordato Achille Lauro. Le chiedevo espressamente della sì. notizia, perché un po' perché è il nostro regolamento, molto semplicemente, bisogna dettagliare. E poi perché in realtà in questa settimana è successa anche una cosa divertente che riguarda Achille Lauro, ovvero Mina, lei, sì. la grande Mina, ha detto di voler duettare con Achille Lauro. Oh, e Achille Lauro ha risposto al suo servizio Regina. No. detto no. No. E quindi mi sembrava, ero semplicemente curioso di sapere se si riferiva a questa okay, o all'uscita del questa, suo disco. Questa non l'avevo sentita. Beh, comunque. La ringraziamo moltissimo. Grazie Simonetta. Benissimo, grazie a voi. Faccio un bagno per conto esatto, nostro. Buon agosto. Grazie, buon agosto. Grazie. Allora, adesso riprendiamo, io direi, diamo anche il terzo, dai, diamo anche il terzo, magari in corner riusciamo a inserire un'altra telefonata. Il terzo indizio è questo: ha rimediato a un torto. Quindi è scattante, ha cura del passato ed ha rimediato a un torto. Anche perché la notizia è divertente, scusa, non so se aiuto troppo in questo modo, però infatti, è abbastanza divertente. È ecco, abbastanza divertente, anche da vedere, diciamo, adesso di più brava, di così, cosa devo ma dire? Sì. Anche perché di solito non... uno scatto che non si fa in quei momenti lì. Allora, andiamo avanti e parliamo di un vaso per monitorare la qualità dell'aria. Premio L'altro pianeta. E l'ultimo balletto di Carlo della stagione è dedicato al vaso per monitorare la qualità dell'aria in città. Questo vaso si chiama Arianna, è progettato da un team di giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano, ma ci racconta un po' tutto Paolo Barbato, che è per l'appunto uno di questi giovani ingegneri del team, CEO e cofondatore di Wise Air. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io la ricordo in una sede più formale, che è quella di Focus Economia con Sebastiano Barisoni, quando avete parlato di questo. Adesso andiamo esatto, sulla pratica, perché insomma questo vaso adesso c'è, non è più un'idea, il vaso adesso c'è, si può comprare, insomma un po' dispendiosetto, però si può comprare. Esatto, finalmente c'è, anzi ce ne sono tanti, nel senso che finalmente abbiamo consegnato i primi 50 vasi ai nostri ambassador, noi li chiamiamo ambassador perché milanesi, perché il progetto nasce proprio per coinvolgere, riunire e collegare tutte quelle persone che si sentivano paralizzate rispetto al problema dell'inquinamento atmosferico. Arianna è un prodotto che, come avete detto, è possibile preordinare, acquistare, ma è ancora prima un simbolo che unisce le community urbane di persone che vogliono fare qualcosa di concreto verso una soluzione per, diciamo, per il problema annoso dell'inquinamento atmosferico e nelle tutto città, parte certo, da creare consapevolezza. Sì. Creare consapevolezza, quindi uno deve, cioè diciamo in questa maniera, acquistando questo vaso e mettendolo sul proprio balcone, contribuisce a raccogliere dei dati che poi servono per creare una rete no? Che fornisce la situazione generale della città o di un quartiere fondamentalmente. Esatto, noi volevamo creare una soluzione tecnologica che fosse complementare a quella dello stato dell'arte, quindi le classiche centraline governative, le centraline ARPA, che rispetto a quelle che ovviamente sono lo stato dell'arte, la base di partenza, sono quelle che danno il dato normato, noi volevamo creare, accendere tanti puntini di monitoraggio, rendere tutti i balconi della città dei nati invisibili per capire qual è la situazione strada per strada, quartiere per quartiere. Ma nel fare questo, oltre a creare dei dati che poi saranno, speriamo, utili alle amministrazioni per prendere delle decisioni più informate, volevamo coinvolgere direttamente le persone, perché appunto l'osso proprio del progetto è quello di creare una consapevolezza diretta nei cittadini, che fino adesso ci sembrava fossero un po' troppo distanti dalla soluzione, troppo legati a delle logiche di lamentela, di giustamente, però non avevano nessun appiglio per poter muoversi veramente concretamente verso una soluzione. Allora, ma mi chiedevo una cosa, mi chiedevo, sì, non si rischia, diciamo, di creare dell'allarmismo, nel senso che giustamente, come stava ricordando, nel momento in cui ci sono delle centraline che sono messe in certi punti, tra l'altro c'è anche chi si lamenta perché dice è troppo facile, la mettete in un punto in cui non c'è inquinamento, l'attaccate solamente a mezzanotte quando non ci passano le macchine, quindi sembra che l'aria sia pulitissima, in realtà l'aria non è pulita. D'altro canto uno però dice, io come posso garantire che quel vaso lì, c'è, faccio un esempio stupido, se io mi metto il vaso sul balcone, poi esco e mi fumo due pacchetti di sigarette, sembra che a Milano ci sia l'aria di Bangkok, sì, esatto, o no? O il vaso capisce che quello in realtà non è l'aria, ma è un agente esterno solo in quel momento? Certo, allora su questo ovviamente ci andiamo molto molto cauti, nel senso che a parte che la rete è molto estesa, quindi noi riusciamo a partire dai dati grezzi quando il vaso li comunica al nostro, diciamo, server centrale, a fare una sorta di post-processing, cioè li processiamo anche a valle. Ah, perché voi in realtà fate una media di tutti i dati, non è che a me arrivano i dati del mio vaso sul mio telefonino? Sì, no, entrambe le cose, nel senso che attraverso l'applicazione che si chiama Weather chiunque può accedere ai dati in tempo reale. Però quello che succede è che quando noi vediamo delle anomalie, ok, perché sì, attraverso degli algoritmi è possibile vedere, studiando sia le serie temporali che la situazione, diciamo, distribuita adesso nella città di Milano vaso per vaso, certo, vediamo se ci sono delle anomalie, come possono essere quelle che ha detto e lei. E quindi mi chiamate e mi dite smetti di fumare davanti al vaso, giustamente. Sei l'unico in tutto quel quartiere lì che ha questi dati, quindi devi no, far qualcosa. Ero curioso semplicemente di capire come funzionava, non è che cioè il vaso davanti alla marmitta, al tubo di scappamento. Esatto, no, però ci sono ovviamente, c'è sempre una continua ricerca perché si tratta di una soluzione innovativa. Ci sono altre città come Londra che hanno applicato dall'alto, quindi il sindaco di Londra con un progetto che si chiama Great London, dall'alto delle tecnologie simili per estendere la rete di monitoraggio, però si tratta comunque di soluzioni e tecnologie innovative, quindi siamo in continua esplorazione e anche in una continua fase di risoluzione di tutta una serie di criticità e problemi, certo, come per esempio questo che ha presentato. Ma la cosa interessante è che già da subito è possibile avere una visione molto più completa, molto più a 360 gradi di quella che è la situazione dell'inquinamento nelle varie strade, nei vari quartieri. Beh, sicuramente è un acquisto, diciamo, che uno può proporre a comitati magari anche di cittadini preoccupati che vogliono, no, darsi da fare, raccogliere dati. Poi però questi dati vanno anche, diciamo, accolti e validati dalle istituzioni, perché altrimenti restano così, sospesi, no? Esatto. Esattamente, sì, ma infatti il senso è proprio quello di aprire i dati in una logica proprio di collaborazione, di esplorazione congiunta con le amministrazioni, con la pubblica amministrazione. Ecco, col Comune di Milano, per esempio, c'è stato sin da subito un incontro particolare con l'assessorato per la partecipazione civica e si sta cercando di integrare questo nuovo approccio, questo nuovo paradigma, che tra l'altro rientra in una cornice più grande che è promossa anche dalle Nazioni Unite, cioè proprio un framework europeo che promuove l'integrazione di dati raccolti da sensori low cost con dati raccolti da centrali governative. Quindi ci inseriamo all'interno di un qualcosa che di una collaborazione, diciamo, a più mani, che speriamo sia fruttuosa. Grazie davvero. Grazie. E complimenti a Paolo Barbato, tutta la squadra, CEO e cofondatore di Weather, Wise Air, e alla fine, insomma, è arrivato Arianna, è arrivato al il vaso da Arianna, che si L'ultimo poteva chiamarlo premio... anche Pandora, effettivamente, essendo che contiene tutti i mali, tutto lo smog, poteva anche essere Pandora, Arianna, ma però va benissimo ti traccia, Arianna. Quell'altro esce cinquina, ma forse esatto, è meglio Arianna. Va bene. Paolo mille. Barbato, buona giornata. Grazie. Grazie mille, salve. Abbiamo una ascoltatrice, Lucilla, dalla provincia dell'Aquila. Lucilla, sì, buongiorno. Proprio la zona Cesarini della zona Cesarini, l'ultima puntata, ci dica. Sì. Allora, io dico Berlusconi. Berlusconi, come mai? Perché ha corrisposto alla sua compagna, ex compagna. Ah, un ventello. Sì, certo. Prego. Una bella cifra, diciamo, come risarcimento dei 20 anni passati con lui. Sentiamo il notaio. Non era Berlusconi e nemmeno i 20 milioni dati alla Pascale, più un assegno annuale che non ho capito di quanto sia. E io pure ricordo. E nessuno l'ha capito. Comunque la base d'asta non mi sembra mai. Esatto. Comunque sia, no? Si parte da 20 milioni. Va bene. Dobbiamo grazie, forse. Lucilla, grazie davvero. E buona estate a Lucilla. Come adesso dobbiamo dare buona estate a tutti. Esatto. Allora, ci siamo tenuti quest'ultimo minuto per ringraziare Andrea Piana, il nostro autore, e poi in assistenza oggi abbiamo Edoardo Lavezzari, poi c'è Danilo Di Trani, c'è Carmelo Lauricella in regia, ma c'è Peter Bescapè tante altre volte, esatto, il sabato e la domenica, ieri non ho potuto salutarlo. Tutti i registi che abbiamo si sono trovati al di là del vetro. Beh, ci diamo che ci facciamo auguri, buone vacanze, auguri, Carlo. Buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori. Io ringrazio te, Laura Bettini, per quest'anno e questa stagione di Si Può Fare, e basta, no, ci commuoviamo. Grazie, esatto. Carlo Gabardini. Allora, alla prossima, ci ritroviamo a settembre, speriamo, volendo, tutti a settembre.